Questo salmo è per me particolare, al punto che l'ho imparato a memoria da molti anni, vorrei che anche altri lo facessero. In genere si incoraggia ad imparare a memoria il bellissimo Salmo 23, e certamente questo è giusto, ma la professione di fede contenuta nel Salmo del quale vi voglio parlare, l'umiltà, la sobrietà, la temperanza e l'incoraggiamento insiti in esso, mi toccano nel profondo del cuore anche perché non sculi, e al mondo forma letteraria più naturale e onesta dei salmi. Il testo è il seguente. O Eterno, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono presuntuosi, non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. Ho calmato e acquietato la mia anima, come un bambino, svezzato sul seno di sua madre. La mia anima dentro di me è come uno svezzato. O Israele, spera nell'Eterno, ora e per sempre. Quando si parla con il Dio onnisciente, vivente e vero, non è possibile mentire, perché si mentirebbe solo a se stessi. Il salmista inizia con l'affermare che il suo cuore non è gonfio di superbia. Una simile affermazione ha portato alcuni commentatori a dichiarare l'assurdità di una simile preghiera, perché nel momento che si sostiene di non essere superbi, lo si è davvero. Perciò, occorre fare alcune precisazioni e, casomai, sfatare certi abbagli religiosi. Il salmista non sta sostenendo di non aver mai avuto bagliori di orgoglio, ma semplicemente che il suo cuore, cioè le sue intenzioni giornaliere, non sono volte alla superbia. Infatti, altri traduttori rendono «il mio cuore non si inorgoglisce» o «il mio cuore non si è insuperbito», dando l'idea che di norma la sua condotta non è volta alla superbia. Sotto questo aspetto, anch'io posso sostenere che le mie prospettive giornaliere non sono guidate dalla superbia. Quando poi spiego che la superbia non abita più nel mio cuore, da alcuni sono compatito, perché la fede ha sempre bisogno di manutenzione, mentre per altri ho raggiunto l'apice dell'orgoglio. Comprendo questa reazione, ma se chi mi giudica così avesse fatta la mia esperienza, capirebbe le mie motivazioni. Molti anni fa, nel leggere la parola di Dio, a un tratto un'affermazione di Gesù ha letteralmente fulminato la mia mente e il mio spirito. Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Matteo 7,11. Gesù stava parlando della preghiera e incoraggiava gli ascoltatori di pregare. Per far comprendere maggiormente la bontà di suo Padre, trasse un esempio dei rapporti umani. Per quanto siamo malvagi, noi diamo ai nostri figli ciò che chiedono di buono. Dunque, anche nel compiere il bene, mentre facciamo cose giuste, noi restiamo irrimediabilmente malvagi, in piena conformità alla nostra natura corrotta. Se dunque siamo malvagi pur compiendo il bene, quanto più lo saremo nel male. Una malvagità che toglie ogni possibilità che in me ci sia del bene. Quel giorno è avvenuta letteralmente in me una conversione mediante la quale non sono stato più l'uomo di prima. Una conversione, come quando sono passato da figlio del diavolo a figlio di Dio. Non ho mai più avuto il minimo pensiero di essere bravo, buono o meritevole di alcuna cosa. Il bene che faccio è merito solo dello Spirito Santo. Il salmista continua la sua sincera preghiera dicendo «I miei occhi non sono presuntuosi», cioè orgogliosi o boriosi. Sembra una confessione inutile, perché dopo aver testimoniato di non avere il cuore orgoglioso, potrebbe sembrare evidente che gli occhi non siano presuntuosi, ma non è sempre così scontato. Gli occhi sono lo specchio dell'anima e la vera luce del corpo, per questo Gesù ha detto che «La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato». Matteo 6,22. Dobbiamo dare allo sguardo molta più importanza, perché come guardiamo, così viviamo. Si potrebbe dire «Dimmi come guardi e ti dirò chi sei». Se l'occhio è puro, non malizioso, avremo un giusto rapporto con il prossimo. Diversamente, se i nostri sguardi rivelano la pienezza di noi stessi, poco serve migliorare il nostro rapporto. Avremo tolto la ragnatela, ma non il ragno. Se lancio sguardi di invidia a chi è più alto di me, o occhiate di disdegno a chi è inferiore, non avrò mai il giusto atteggiamento verso il prossimo. Se i miei occhi non sono presuntuosi, sarò comprensivo con tutti e tutti i giusti saranno miei amici. Giustamente qualcuno ha detto: la vera bellezza consiste nell'avere un cuore contento e uno sguardo sereno sulla vita. In effetti, la bellezza di un bambino in braccio alla mamma è lo sguardo sereno e la consapevolezza di chi sa essere nel posto giusto. Il salmista voleva dire certamente anche questo, perché subito dopo aggiunge: non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. Temo che la mancanza di questo atteggiamento sia la causa principale di tanti dolori nella società e anche di tante nevrotiche malattie. Purtroppo a poco servono insegnamenti morali e citazioni spirituali a non anelare a cose che sono oltre alla nostra portata, perché questo deriva da un cuore pieno di ambizioni sbagliate. Ecco perché il salmista ha iniziato dichiarando che il suo cuore non è gonfio di superbia. E dal cuore, cioè dall'intimo della nostra personalità, che procedono cattivi pensieri. Una volta curato questo, tutto il resto torna nei giusti limiti. Bisogna ricordare le parole dell'apostolo Paolo, quando disse che è l'avidità del denaro ad essere la radice di molti mali e dolori, 1 Timoteo 6 e 10, e non tanto il denaro in sé o il desiderio di possedere certe cose. L'avidità consiste proprio in questo caso, nel volere a tutti i costi un tenore di vita superiore a quello che Dio ci permette, o a cercare affannosamente cose troppo grandi e troppo alte per le nostre possibilità. La preghiera, espressa nel libro dei Proverbi, è alquanto opportuna. Non darmi né povertà né ricchezze, cibami del pane che mi è necessario, Proverbi 38. Non è tanto la preghiera a valere, perché la si può esprimere come atto moralistico o come gesto imitativo, religioso nelle preghiere, ma se fatta con sincerità di cuore, vale, perché procede da chi vuole vivere nei termini della creazione stabilita da Dio. E il desiderio di chi vuole esprimersi in conformità alle sue capacità e possibilità. C. È forse qualcosa di più bello nell'uomo? Il salmista continua la sua preghiera con queste parole: ho calmato e acquietato la mia anima. Non si tratta di belle parole, non si tratta di una bella preghiera religiosa, non si tratta di ammirare un uomo che si è espresso umilmente, anche se contiene queste cose, e per questo vorrei dargli una connotazione molto più umana. Si tratta di qualcuno che ha preso coscienza di come si stia male, con un cuore orgoglioso, di come sia angoscioso possedere due occhi che continuamente rivelano una orgogliosa autosufficienza che disprezza il prossimo. Si tratta di qualcuno che ha compreso come sia un tormento vivere, cercando continuamente cose che non sono alla sua portata. La stessa tensione del bambino che vuole a tutti i costi il barattolo della marmellata, posta su di un piano molto più alto di lui. Si allunga, ma il barattolo della marmellata è sempre lì, e il desiderio rimane angosciosamente insoddisfatto. Acquietare la propria anima è il risultato di chi si è disgustato degli innumerevoli sforzi e delle eterne insoddisfazioni della vita. Si calma la propria anima quando non si ha più nessunissima speranza di soddisfare il proprio insaziabile bisogno di affetto, di amore e di riconoscenza. E la totale morte alle tue ambizioni assurde, la totale morte ai capricci infantili che ti sei portato dietro e hai cullato durante la tua estenuante vita. Avevi ma non godevi. Godevi ma non ti soddisfavi. Ti soddisfavi ma ne avevi sempre più bisogno. Una tremenda e terribile nevrotica siccità interiore. Si arriva a calmare l'anima quando si inizia ad apprezzare, per vivere, la sufficienza del proprio respiro. Quando nella tua esistenza cose e persone care e non care che la compongono non sono più necessarie per la tua felicità. Hai calmato la tua anima quando vedi la tua esistenza utile e preziosa per il prossimo, quando vivi in funzione degli altri per sollevare il loro travaglio. Solo con un'anima calma e serena potrai, come fece Gesù sulla croce, occuparti degli altri e non di quello che ti sta succedendo fino al termine della tua vita. E c'è solo con un cuore sereno che potrai versare le ultime lacrime per la sofferenza altrui mentre tu accetti l'insondabile piano di Dio per la tua vita. Accettare che il suo amore ti porti sulla croce. Accettare di chinare il capo per l'ultima volta, pienamente soddisfatto di come hai vissuto. Mantenere calmo e sereno il proprio cuore ora è possibile solo essendo disposti a tutto questo, o come ha scritto l'Apostolo Pietro. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi, cioè attrezzatevi. Fornitevi anche voi del medesimo pensiero. 1 Pietro 4:1. Il che dà l'idea di un atto di grande volontà per acquisire un pensiero che è esattamente contrario alla nostra inclinazione naturale, cioè soffrire. Il cuore di molti credenti è sereno e tranquillo per il loro rapporto con Dio, per la fede nel perdono dei loro peccati, ma non lo è in merito al futuro. La nostra anima sarà veramente Nuovo Testamento e calma e serena quando accetteremo tanto gli eventi che ci porteranno quotidianamente a morire, cioè a rinunciare alla vita ingiusta presente, quanto quelli che porranno definitivamente termine alla nostra esistenza. Il salmista è cosciente di come sia difficile esprimere ciò che sta vivendo, dunque attinge da una delle immagini più belle dell'esistenza umana. Come un bambino svezzato sul seno di sua madre. La mia anima dentro di me è come un bambino svezzato. Ho trovato una sola Bibbia, quella di Salvatore Garofalo, che traduce in modo molto simile all'originale ebraico, cioè «ho placantico testamento» e «ho acquietantico testamento, L a mia anima», come uno SVZZ, antico testamento, sopra L a sua madre, come uno SVZZ, antico testamento. È il mio spirito in me, poiché si parla di svezzamento e di una madre, è normale pensare al bambino divezzato, cioè slattato, dal seno della madre. Forse l'ebraico vuole dire qualcosa di più. Il messaggio del salmista è questo. Ciò che procurava piacere e gioia ci è ancora, ciò che per me era fondamentale, non è sparito, ma ora sono appagato e felice anche senza ciò che precedentemente mi era indispensabile per vivere. Una testimonianza bellissima che mette in evidenza il vero cristianesimo. In genere si insegna che la vita cristiana è una vita sostitutiva, cioè che è Cristo a vivere in noi, ed è vero. Si dimentica però di insegnare anche che da parte nostra ci deve essere una forte e determinata volontà a compiere la volontà di Dio, e si trascura di ricordare ai credenti che bisogna impiegare tutto il proprio impegno per ubbidire a Dio. Un impegno, come se Dio non facesse la sua parte. Sembra che il messaggio evangelico abbia demotivato la volontà del credente. Mentre un giusto messaggio insegna una determinata decisione totale e assoluta di vivere per Dio. Quando il salmista dice di aver placato e calmato l'anima sua, non ha fatto altro che fare ciò che Dio non può, agire al nostro posto. Abbandonarsi nelle mani di Dio non significa aspettare che il mangiare ti arrivi in bocca, ma lavorare duramente i campi perché essi producano da parte di Dio il cibo, per poi raccoglierlo. L'immagine del bambino divetrato è bella, ma poiché il testo ebraico si riferisce a un uomo, l'insegnamento è anche quello di un uomo di qualsiasi età che decide di non essere più un bambino dipendente dai piaceri che offre la vita, ma riposa dolcemente sopra sua. Madre, cioè la maternità di Dio, contento di essere dove il profondo del suo essere ha bisogno. L'immagine del seno della madre può essere bella, ma per me che ho avuto il trauma di prendere il latte da una nutrice diversa da mia madre, e poi anche quello di non poter accedere liberamente al seno di mia moglie, le mammelle evocano un dolore e non un piacere, mentre l'immagine... Mio padre è morto che avevo 13 mesi, mia madre mi ha posto in collegio a 7 anni, così nella mia vita ho realizzato maggiormente l'amorevole cura di un padre e di una madre divina, e quando ho svezzato la mia anima, cioè liberato dalla schiavitù dei piaceri sbagliati della vita, ho capito che Gesù Cristo stesso è il mio piacere, la mia soddisfazione, il mio riposo. Ora non posso stare senza di Lui. Egli è la vita della mia vita, il respiro ultimo della mia anima. Quando esalerò l'ultimo respiro umano, la mia anima inizierà a respirare, finalmente, dell'alito eterno e divino. Gennaio 2013. Ellero.